I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte e ciao a tutti. Questa è la seconda cartella del percorso della coordinamenta verso l'8 marzo e tratta della colpevolizzazione e dello stigma. Il nostro intento è fare in modo che la lotta femminista contro l'oppressione patriarcale possa essere utile alla liberazione di tutti e di tutte, di tutti gli oppressi e le oppresse, perché ci siamo rese conto che in questa stagione la dominazione neoliberista si muove su binari molto simili a quelli che il patriarcato ha usato e usa tuttora per ingabbiare noi. Quindi proprio per questo abbiamo deciso di partire da noi stesse e di affrontare i nodi del dominio del patriarcato che si ritrovano nella modalità odierna del neoliberismo, in modo da poterne smascherare i meccanismi, da poterne smascherare le modalità e da fornire strumenti per poterli scardinare. Quindi, partendo da noi, cosa significa colpevolizzazione e stigma? La colpevolizzazione e lo stigma sono stati due strumenti potentissimi del controllo sulle donne e sono stati applicati sia riguardo al comportamento all'interno della famiglia, del microcosmo familiare, sia nei rapporti sociali esterni. Cominciamo da qualche esempio. I comportamenti violenti del maschio, verbali e fisici, sono sempre stati imputati a mancanze rispetto al ruolo di moglie e di madre. No? Vi sarà capitato di sentire discorsi del tipo: non sa fare niente, non sa fare da mangiare, non sa tenere la casa, i figli non studiano, sono sempre sciatti, trasandati, sporchi, oppure dorme fino a tardi la mattina, non si alza. Io mi ricordo da ragazza che durante un'estate in vacanza veniva raccontato che le due maestre del paese davano un pessimo esempio familiare, perché se qualcuno o qualcuna passava a casa loro, a qualsiasi ora passasse, le trovava sempre a leggere il giornale con tutta la casa sotto sopra. Quindi nel paese giravano voci inquietanti di questo tipo. Come potevano educare a sani principi con queste premesse, no? Poi, per esempio, i tradimenti del coniuge sono stati sempre ritenuti colpa della moglie, al di là del fatto che fino agli anni 80, fino agli anni 70, ma diciamo alla fine degli anni 70, la moglie per adulterio finiva in galera, mentre il marito no, insomma, questa piccola chicca insignificante. Però i tradimenti appunto del coniuge sono stati sempre ritenuti colpa della moglie. Pensate a quello che alle voci che vengono, che circolano in questi casi, no? Tipo: pensa, non è stata capace nemmeno di tenersi il marito, oppure: certo, se la vita sessuale non è appagante, l'uomo cerca soddisfazioni fuori, oppure: bisogna che la moglie dia un po' di pepe alla vita coniugale, no? E quindi vengono consigliati con completini osé, la donna si deve dare da fare. Oh, non parliamo poi della violenza, delle aggressioni sessuali, degli stupri e via discorrendo, in cui viene detto sistematicamente: vestiva in maniera discinta, aveva la gonna troppo corta, andava in giro di notte, se l'è cercata, ha dato confidenza agli estranei, civettava con altri, no? Non parliamo poi delle modalità che vengono messe in atto in casi di violenza sulle donne nei tribunali, per cui la colpevolizzazione è proprio imperante. La donna che ha subito violenza diventa la principale imputata, invece i ruoli si ribaltano, no? Viene messo in luce ogni più piccolo anfratto della sua vita, e per dimostrare che in fin dei conti la colpa è anche sua. E lo stigma rispetto a tutti questi comportamenti Viene in prima battuta, veniva, è venuto sempre e comunque continua ancora a venire nonostante tutti gli sforzi messi in atto, per esempio, dal femminismo, ancora dalle altre donne. Perché le donne, come compito e ruolo patriarcale, hanno quello di controllare i comportamenti sociali del gruppo. Quindi controllare anche i comportamenti sociali delle altre, no? Per esempio, quello che è considerato una caratteristica delle donne, il pettegolezzo, no? Lo strumento del pettegolezzo, le donne vengono accusate continuamente di essere pettegole, viene imputato loro come difetto, un difetto addirittura congenito, un comportamento addirittura naturale del femminile, no? Che usa il pettegolezzo come arma. Beh, il pettegolezzo non è altro che l'assunzione del ruolo di controllore che hanno le donne, che viene dato alle donne dal patriarcato sul comportamento delle altre donne, no? E quando le donne si sono sottratte a questa colpevolizzazione, forte, a tutto campo, che veniva loro e viene ancora gettata addosso, le donne sono sempre state punite molto duramente, sono state punite con l'esclusione sociale, con la reclusione, con l'induzione al suicidio o alla pazzia. Quante donne sono finite in casa di cura, all'ospedale, in manicomio? Quante sono morte? Non parliamo delle morti sul rogo per mano del potere, ma proprio per mano dei maschi di famiglia, padri, mariti, fratelli, zii, che ne hanno stigmatizzato e punito i comportamenti devianti, no? Se pensate che nel periodo vittoriano la prostituzione era considerata una punizione per le donne colpevoli. Cioè, se una donna si prostituiva, le prostitute voleva dire che avevano fatto qualcosa di grave. Quindi la prostituta non era prostituta per necessità, non era prostituta per... No, la prostituta era perché evidentemente aveva fatto qualcosa di grave. E allo stesso tempo, se una donna nel periodo vittoriano faceva qualcosa di grave per la scala sociale, di valori sociale, allora il suo unico destino era la prostituzione, perché nessuno le avrebbe mai più dato asilo, accoglienza o aiuto. Allora, vediamo adesso come si muove il neoliberismo, perché il neoliberismo si muove con modalità molto simili a quelle che il patriarcato ha messo in atto per la nostra colpevolizzazione e per stigmatizzarci. Perché il neoliberismo è forte di uno strumento molto violento e allo stesso tempo molto utile al potere, che è quello del politicamente corretto, che gli è stato portato in dote dalla socialdemocrazia. Facciamo degli esempi, tanto per capirci. Cioè, qualsiasi cosa succeda, è sempre colpa del cittadino o della cittadina, cioè degli individui che sono irresponsabili e dannosi. Il pianeta è inquinato e devastato? È colpa tua, perché non fai la raccolta differenziata. Usi troppa corrente elettrica, sprechi. Le città sono affogate nel traffico? È colpa tua, perché non prendi i mezzi pubblici. Gli uffici non funzionano? È colpa dei lavativi e dei furbetti. I migranti scappano dai loro paesi distrutti da guerre e carestie? È colpa tua che mangi troppo, che vuoi avere uno stile di vita troppo alto e che grava sulle spalle degli altri e degli immigrati. La città è sporca? È colpa tua che butti le cartacce per terra. Non c'è lavoro? È colpa tua che hai solo pretese e pensi che tutto ti sia dovuto. E infine, per quadrare il cerchio, una caratteristica proprio che è neoliberista, ma che discende da tutto questo, appunto solo la quadratura finale, Sei povero, sei povera, è colpa tua, perché non ti sai valorizzare, non ti sai proporre in una società che invece ti fornisce delle possibilità infinite e comunque sei uno scansafatiche, una scansafatiche, un nulla facente, un lavativo, una lavativa, un pretenzioso, una pretenziosa, in fin dei conti sei pericoloso o pericolosa perché non ti rendi conto che la colpa è tua. È un ribaltamento totale dal concetto che noi siamo parte di un sociale al fatto che invece la colpa è sempre individuale. E poi non solo, ma l'individuo si deve rendere conto che la soluzione può essere soltanto sua. Cioè deve affidarsi agli assistenti sociali, agli psicologi, deve prendere gli psicofarmaci, TSO. Autorepressione, questa è la soluzione che il neoliberismo, a cui il neoliberismo spinge, medicalizzazione, marketing, merce, svendita. E in ogni caso, poi, se per caso sei un individuo o un'individua particolarmente refrattaria, allora ci penseranno i tuoi vicini a controllarti, eh sì, a denunciare i tuoi comportamenti, a fare le telefonate giuste, a farti rientrare nei ranghi, in un controllo sociale serrato, che praticamente poliziotti di vicinato, poliziotte di caseggiato, poliziotte e poliziotti di condominio. No? Vi leggiamo uno stralcio che abbiamo scritto tempo fa proprio su questo argomento. Un terrorismo sociale forte e vincente annichilisce le persone, colpevolizzandole, avvilendole, frustrandole, trascinando perfino ogni comportamento dovuto al bisogno nella sfera delinquenziale. Questo è il pensiero unico, cioè l'ideologia neoliberista. Anche la sofferenza è una colpa personale e perciò l'io, sofferente, umiliato, maltrattato, viene derubricato dalla sua sofferenza e viene reinserito nel mercato come merce. Un capitalismo per il quale ogni colpa è sempre dell'essere umano, che è bacato, fallato e attanagliato da un intimo disordine da combattere ricorrendo alla medicina, al marketing, alla psicanalisi e alla polizia. Per cui il conflitto sociale non può che essere un malinteso, le lotte e le ribellioni, gli scioperi, i picchetti non possono essere che un disordine intimo da sciogliere in un modo, nell'altro o nell'altro ancora. E allora ci dobbiamo chiedere quando è che noi donne abbiamo cominciato a prendere coscienza di tutto ciò. Intanto passo la parola a Noemi e ci risentiamo fra poco. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene e ora sono qui che mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, e ho buttato via per niente. Sai, Parliamo ora della seconda cartella. Siamo tutte colpevoli. E, appunto, la prima cartella era sull'inadeguatezza che ci fa sentire colpevoli. E quindi colpevoli di cosa? Colpevoli di tutto? Per la società, sì, siamo colpevoli di tutto. Se non ci sottraiamo alla dominazione del neoliberismo e del patriarcato, saremo tutte oppresse dal senso di colpa. In realtà lo siamo, non è che saremo. Lo siamo sempre state. Lo siamo state perché non siamo buone mamme, lo siamo perché i nostri compagni magari ci tradiscono ed è colpa nostra che ce lo siamo fatto sfuggire, e che non facciamo figli, e che non siamo abbastanza intelligenti, e che non abbiamo scelto le materie scientifiche per dimostrare che le donne possono finalmente farcela a fare le materie scientifiche. Insomma, da ogni punto di vista è colpa nostra. Perché non siamo mai quindi all'altezza? Non siamo mai all'altezza perché questa società prende questa barra da raggiungere e la sposta in continuazione. O anche se la lascia lì, comunque trova dei difetti nel modo in cui abbiamo provato a raggiungere l'altezza della barra. O addirittura, mentre stiamo correndo per saltare e superare finalmente la barra, ce la spostano. Certo, oramai fingiamo di vivere in una società che abbraccia tutte, vuole bene a tutte, che ci permette tutto, dove l'emancipazione è la nostra unica amica e salvatrice. Addirittura in alcuni casi si è passato al fatto che al discorso in cui noi siamo così fortunate perché abbiamo avuto l'emancipazione, abbiamo avuto le quote rosa, abbiamo avuto tutta una serie di incentivi e ora quindi bisogna ritornare a parlare degli uomini che poverini sono in una condizione bistrattata, che sono lasciati da soli, che hanno problemi con la virilità, che non hanno più un ruolo in questa società, che vengono messi e soggiogati, oppressi da queste donne che sono diventate troppo forti. Però diciamo che non ci siamo dimenticati del vecchio ruolo di donna casalinga a casa, cioè nel senso non scordiamoci, è semplicemente un pezzo del puzzle in più. Non è che questo toglie alle ragioni sociali, diciamo, di vecchia data, di vecchia memoria vittoriana. Si sono aggiunte semplicemente degli elementi più tendenti al nazismo, però solo per colorarle un pochino, insomma, non è che ci siamo dimenticati della nostra casalinga. Quindi è colpa nostra. Sempre e comunque, perché parliamo troppo delle donne, perché non ne parliamo abbastanza, perché ne parliamo male. Tutti quindi vogliono stare al centro dell'attenzione, tutto gira intorno alla fica e noi dovremmo smettere quindi di lamentarci, perché se no, poverini tutti gli altri che si devono sudare l'attenzione del mondo. Questa società viene narrata quindi come il migliore degli scenari immaginabili per la donna, no? Perché comunque possiamo avere tutto, se non ce l'abbiamo è colpa nostra. Più noi siamo oppresse dal senso di colpa perché la situazione è così florida, secondo quello che ci viene sempre raccontato e ci fanno, alla fine ci convincono a credere, che se è così. Se è così florida questa situazione e noi non raggiungiamo l'obiettivo e noi non siamo adeguate, di chi è la colpa? Tua che non ci riesci. È un finto buonismo, è sempre la violenza del bene che ci soffoca e al massimo ci rende vittime, perché quasi quasi essere vittime in un certo qual modo ci esonera dal senso, non dal senso di colpa, però diciamo dal sentirci responsabili. Questo lo fa la società, è sempre un senso di colpa, semplicemente messo in una maniera differente. Eh? Quindi siamo carcasse, buttate là al massimo. È una condizione di non libertà, è una gabbia, tutto il mondo ha una gabbia, noi siamo ingabbiate in questo senso di colpa. Sembra un giochino psicologico questo qua del senso di colpa, che ci vuole sottrarre cioè, nel senso, noi pensiamo che la società ci dice che sottrarci dal senso di colpa sia facile, perché appunto, come ho appena detto, diciamo, i maggiori sensi di colpa della società sono legati appunto a come tenere la casa, al proprio corpo, a, diciamo, la parte privata, tra virgolette, no? Il lavoro, l'essere madre, donna, figlia, sorella, eccetera. Quindi che cosa ci vuole a superare questo se la soluzione all'essere una migliore madre può essere nell'organizzazione della casa fatta con un diverso criterio? Se per raggiungere uno stipendio migliore basta semplicemente applicarsi, no? È facile, viene posto così. Torniamo a quello che dicevamo prima: la società è la migliore che ci potesse capitare, siamo al massimo dello splendore, quindi comunque. Se tu non riesci con delle condizioni così favorevoli a raggiungere il tuo obiettivo, di chi può essere colpa? Tua. Addirittura, vabbè, questo come al solito si sono mossi su questo psicologi ed esperti che si sono prostrati ovviamente al servizio delle donne per aiutarle nel loro percorso contro il senso di colpa, per liberarsi. Addirittura i quotidiani spesso pubblicano articoli che ci dicono di stare tranquille, che l'unico scopo è di isolarci, di renderci atomi separati che gestiscono singolarmente la propria esistenza in modo tale da raggiungerla la felicità, no? Quindi è tutto di nuovo puntato sulla realizzazione personale. Non de Se riesci a raggiungere quello, allora ce la fai, però appunto mascherato da un sentiero facile da percorrere. Quando mentre cammini su questo sentiero non fai altro che essere bombardata di frecce. E quindi se non le schivi è sempre colpa tua. Quindi la colpa da che cosa ci deriva? Dallo stigma che viene portato dalla società. Non solo dalla società, soprattutto da donne che abbiamo già identificato come le patriarche. E che spesso, e anche dalle altre donne che in realtà hanno semplicemente introiettato dentro di loro questo modo di ragionare, questa oppressione, e quindi si sono trasformate loro stesse per difendere loro stesse, il loro ruolo, le quattro briciole che sono riuscite a raccogliere per difendersi. Allora seguono le patriarche. Perché se no non riuscirebbero a respirare, perché a volte respirare è impossibile, perché l'aria si fa sempre più rarefatta, perché le accuse che ci vengono fatte comprendono il tutto, non c'è nulla della nostra esistenza ormai che non venga attaccata quotidianamente dalla socialdemocrazia, dal patriarcato, dal capitalismo. Ogni singolo respiro è sotto attacco. Quindi, estendendo poi questo discorso agli altri, sei un cattivo cittadino se butti la cicca per terra, sei un cattivo cittadino se non fai la differenziata, sei un cattivo cittadino se non vai a votare, sei un cattivo cittadino se non fai tutta una serie di cose che dovresti fare. Perché se la città è gestita male, non è colpa della politica che l'ha gestito l'amministrazione, non è colpa del principio che sta dietro a quell'amministrazione. No, è tua che ti comporti male. Ci hanno infantilizzato. Il senso di colpa è infantilizzazione delle persone. Già nella prima cartella abbiamo accennato alle patologie, poi che derivano da questi sensi, dal senso di inadeguatezza o dal senso di colpa. E la società, quindi, scarica ogni responsabilità sull'individuo, quindi Sei povero? È colpa tua che non sei stato in grado di tenerti il lavoro. Oppure che non fai parte di una famiglia che ti aiuta. Oppure, non so, ti sei scelto o hai scelto, che ne so, prendo il mio esempio, hai scelto lettere che pensavi di fare nella vita, di guadagnare. Va bene. Quindi come ti giri è colpa tua. Se vai male a scuola è colpa tua. Non è colpa di una scuola che ormai è la rappresentazione dell'istituzione che opprime. No, figuriamoci. Qui si ritorna ovviamente al discorso sul merito. Mi viene in mente il discorso, non so perché mi viene in mente il discorso che Pericle fa su Atene, no? Sulla democrazia, su quello che cos'è la democrazia d'Atene. Ora, leggendolo così di primo approccio, uno pensa, oh, che bello la democrazia, dove ognuno può essere quello che vivere a modo suo. In una delle traduzioni è così. Il che per, sarebbe buono che ognuno vivesse a modo suo, cioè si esprimesse come preferisce. Con il rispetto però collettivo, no, di alcuni valori. Ma è un bel discorso, sembra un bel discorso, forse perché non è ancora in una società capitalista che Pericle si esprime, ma è in una società patriarcale, quindi in qualche modo, diciamo, almeno dei valori possono sembrarci un po' più alti, no, più importanti. Però anche lì è da lì che prendiamo il merito, cioè abbiamo tradotto quello che è la democrazia in meritarci qualcosa di migliore. Al massimo, quindi, in questa società ti è concesso essere un cervello in fuga se non ce la fai qua. Mamma, al massimo, comunque, se sei un cervello in fuga. Poi all'estero devi essere tipo, non so, diventare Rockefeller o lo scienziato più importante della tua, dell'azienda più importante di quel paese, o non so, devi scoprire tipo la medicina che curerà dal cancro, come minimo, perché sennò non sei un cervello in fuga, sei un immigrato. A questo proposito mi veniva in mente, pensieri sparsi, sempre un altro pezzo di Coscienza illusoria di sé, di Elisabetta Tegil. Allora, siamo in un momento di transizione in cui sopravvivono valori socialdemocratici modello svedese, mentre comincia a imporsi la lettura neoliberista di cui ora la socialdemocrazia moderna si fa paladina e la tendenza è quella di far rientrare tutte nei ranghi, in una visione moralistica della vita portata avanti da uno Stato che, ogni giorno di più si configura come uno stato etico al servizio di un controllo sociale sempre più serrato, che passa anche attraverso l'autocontrollo della sessualità e della vita privata. E la trasgressione sessuale viene fatta sempre più percepire come rivoluzionaria, ottenendo così due risultati, una normalità vittoriana e una trasgressione sessuale come soluzione ai desideri di liberazione e all'insofferenza per la vita che viviamo. Le regole sociali dipendono da categorie socioculturali e dal modello economico e le idee dominanti sono quelle della classe dominante. Per battere le costruzioni teorico-pratiche che ci vorrebbero imporre, non bisogna farsi irretire nei dibattiti degli esperti, anche quando sono ammantati da presunta scientificità, perché il loro ruolo è di costruire categorie che permettano di etichettare ogni comportamento degli individui. Quelle che non rientrano in una presunta normalità funzionale in quel momento al dominio, devono essere recuperate nel caso questo non riesca, viene sancita la loro esclusione. La tendenza è quella di ridurre tutto a un problema psichico, ormonale e di ambiti di cervello. Sei femminista? Leggi questa società come ingiusta? Ti ribelli? Le motivazioni sociali non c'entrano niente, basta assumere la medicina adatta e andare dagli esperti. La risposta alle ingiustizie sociali e alla violenza della società patriarcale starebbe in farmacia. La nostra risposta invece è autonomia, autodeterminazione, auto-organizzazione e autodifesa. Vabbè, mi sembra che appunto qua ribadiamo che per ribellarci e liberarci tutte serve appunto questo. Senza scordarci ovviamente la lotta di classe, che non andiamo da nessuna parte. Di qui, appunto, ritornando al senso di colpa, dobbiamo distruggere i principi di darwinismo politico e sociale. La società è frutto, appunto, di scelte economiche. Non siamo scimmie del Settecento che vengono analizzate dal primo scienziato che va, un borghese che va in viaggio. Altro aspetto che mi viene in mente del senso di colpa è quello di respiro più internazionale, no? Quello alla Boldrini, permettetemi il parallelismo. Quello delle ONG che salvano il terzo mondo e che ci distoglie dal nostro senso di colpa reale, quello è vero, il colonialismo. Lì dovremmo avere il senso di colpa, lì ci dovremmo sentire delle merde. Permettetemi, insomma, questa. Però no. Il problema è che non doniamo abbastanza. Quindi una piccola donazione ci salva la coscienza, acquieta il nostro senso di colpa, almeno nei confronti appunto del terzo mondo. Ci fa sentire generosi così, no? Ogni raccolta fondi, ogni, diciamo, anche quelle per le malattie, no, degenerative, che ogni 2 per 3 ci sono quelli che vendono qualcosa per strada e raccolgono soldi per la ricerca, come se fossimo no noi, siamo, capito? È la responsabilità è nostra che non si fa ricerca, che la ricerca va solamente verso la militarizzazione, le armi, la distruzione, l'imperialismo. No, non è colpa nostra che non abbiamo comprato la piantina. Quindi arriviamo dunque a capire cosa sia la colpa. La colpa è uno strumento di controllo sociale e forse uno dei peggiori, perché ci lascia sole e sofferenti. Ci dobbiamo riprendere il separatismo, ci dobbiamo riprendere i nostri corpi, perché ora siamo tutte prigioniere politiche, ma se lottiamo contro questo sistema, partendo dal femminismo, saremo tutte libere. Dolce e consenziente. E allora, quando è che noi donne abbiamo cominciato a prendere coscienza di tutto questo di cui abbiamo parlato fino adesso? Quando abbiamo capito che la colpevolizzazione era uno strumento di oppressione, quando abbiamo capito il gioco che stava facendo il patriarcato, quando abbiamo cominciato a capire, perché il percorso è lungo. E la liberazione è ancora tanto lontana. Però un suggerimento e uno sprone è un'indicazione, possiamo darla a tutte e a tutti. Possiamo dire: guardate di non farvi coinvolgere dalla colpevolizzazione, non dobbiamo farci coinvolgere dal politicamente corretto. Il politicamente corretto è uno strumento fortissimo e tremendo di controllo sociale, porta alla militarizzazione del territorio, porta al controllo capillare delle nostre vite, porta alla delazione, porta al controllo reciproco, porta all'autocolpevolizzazione, porta alla paura, porta allo stigma. Noi ci dobbiamo assolutamente sottrarre sempre e in tutti i momenti della nostra vita e aiutare gli altri e le altre a sottrarsi sempre in tutti i momenti della nostra vita, perché noi abbiamo capito di essere tutte prigioniere politiche. E la prossima cartella, la numero 3, sarà proprio su questo, sul fatto che noi siamo di fatto delle prigioniere politiche. Ciao, alla prossima!